24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7 e 18 minuti, buongiorno cari ascoltatori, siamo qui in diretta fino alle 9, ecco che riparte una settimana di 24 mattino e saluto questa settimana Paolo Corleoni in regia con noi, immagino tutta la settimana, no? Sì, il nostro alpino ce l'hanno sequestrato. Chissà dov'è. Va bene, di cosa parliamo nel nostro sondaggio? Beh, parliamo alle 8.30 di un test scientifico che riguarda tutti noi, perché tra poco sarà in commercio dalla Gran Bretagna, che ci dice quanto è la nostra aspettativa di vita, quanto vivremo. E allora ne parliamo e la domanda che vi poniamo è: voi lo fareste questo test? Paolo Corleoni mi guarda e dice no, io non lo farei. Va bene, votate su radio24.it, fareste questo test che ci dice quanta è la nostra aspettativa di vita da un semplice prelievo del sangue. Ne parleremo alle 8.30 ed ora andiamo a scoprire che cosa ci propongono i giornali in edicola. In primo piano. È lunedì 30 maggio, tra l'altro bisogna ricordare che le urne sono aperte, si vota fino alle 15 per i ballottaggi, dunque è giorno di silenzio elettorale, no? Come si suol dire. Allora, le aperture dei quotidiani, Il Sole, l'edizione del lunedì apre sulla mappa dell'evasione, questo è il titolo di apertura di prima pagina, mentre tutti i quotidiani si concentrano su il dato dell'affluenza alle urne in pratica. Voto nelle città, elettori in calo, così titola il Corriere della Sera. Per Repubblica, città caccia l'ultimo voto. Per La Stampa, ballottaggi, affluenza giù, Berlusconi pensa al dopo. Per Il Messaggero, ballottaggi, affluenza in calo, come vedete insomma titoli tutti abbastanza neutri. Per L'Unità, la posta in gioco, questo è il titolo, ci sono quattro carte, quattro assi e sono i quattro candidati maggiori del centro-sinistra nelle città italiane, mentre Il Giornale, ultima chiamata, non sprecate questo voto. Allora, le segnalazioni da cui voglio partire, la prima è strepitosa, la trovo a pagina 19 della Stampa, di quelle segnalazioni che vi mettono sempre di buon umore e poi si inizia la settimana con tanto entusiasmo. Legge gonfia stipendi, l'Abruzzo contro se stesso, racconta Giuseppe Salvaggiulo dall'Aquila, pagina 19. La straordinaria storia di come in regione Abruzzo, con una serie di leggine negli anni, si siano praticamente aumentati gli stipendi un po' a tutti. Perché è un qualcosa che fa impallidire, racconta La Stampa, l'imperatore Carlo V e il suo famoso Todos Cavalleros. Allora, la storia è un po' complicata, riguarda il Consiglio regionale abruzzese, dove qualche anno fa c'è stata un'irrefrenabile pulsione egualitarista e ci si è posti il problema: è giusto che i nostri dipendenti abbiano retribuzioni di anzianità diverse? No. Sono state fatte delle norme di perequazione, indovinate, per riequilibrare gli scatti d'anzianità. In che modo? Ovviamente riequilibrandoli tutti in base a quello più alto. E dunque i dirigenti, tutti a scartabellare gli stipendi del dirigente che aveva lo scatto d'anzianità più alto, e alle norme di perequazione per riequilibrare tutti i dirigenti a quello scatto d'anzianità. Poi soddisfatti i dirigenti, tutti gli altri dipendenti, e così leggina dopo leggina, prima una seconda, una terza, una quarta, si è allargata progressivamente la platea dei beneficiari, tutti più ricchi, meno le casse regionali. A quel punto si è posto un problema delle casse regionali, per l'appunto. Riequilibrati tutti gli stipendi verso l'alto, l'assessore al personale della Regione Abruzzo, Federica Carpineta, ha detto: così le casse regionali vanno allo sfascio. E allora che si fa? Si fa una bella commissione per cercare una soluzione, ma non si riesce a trovare una soluzione. Si propone di abolire quelle norme di perequazione. Per carità, scandalo, diritti acquisiti dai lavoratori intoccabili. Qual è la soluzione che si trova alla fine? Chiedere alla Corte Costituzionale di nominare, di pronunciarsi e dire che è illegittima costituzionalmente la legge che ha permesso ad aumentare gli stipendi. Ma come, si chiede Salvaggiulo, possibile che la regione ricorra in Corte Costituzionale contro una norma che la regione stessa ha fatto? Possibile, tutto possibile. Insomma, legge gonfia stipendi, l'Abruzzo contro se stesso. Dopo aver innalzato automaticamente le buste dei dipendenti, la regione ora, per evitare il tracollo, presenta un ricorso alla Corte Costituzionale. Questa storia molto italiana la trovate sulla Stampa, pagina 19. Voglio invece andare sul Corriere della Sera, dove Andrea Galli a pagina 22 racconta il perché sia stata tolta la semilibertà a chi ha Renato Vallanzasca, pluriomicida, che ha suscitato molte polemiche, 260 anni da scontare, 4 ergastoli, ma aveva ottenuto una semilibertà. Ha combinato però qualcosa che non doveva combinare. L'amore per una PR e Vallanzasca torna in carcere. Era con un'amica cinquantenne e non al lavoro. E racconta Andrea Galli di come Vallanzasca, che aveva la semilibertà, per cominciare vedeva chi non doveva. Non la signora, vedeva pregiudicati, forse qualcuno del vecchio giro, i vecchi italiani della malavita. E poi potrebbe profilarsi un reato, oltraggio a pubblico ufficiale, perché nel corso di una perquisizione nella cella Bollate, Vallanzasca, che ha 61 anni, avrebbe offeso gli agenti della polizia penitenziaria. Insomma, pare che Renato Vallanzasca, che era in semilibertà, uscisse dal carcere e, pedinato dai poliziotti, in realtà si fermava in qualche bar, una chiacchierata con qualche tizio, vedeva, parlava, ascoltava, forse è giusto dire rivedeva, riparlava, riascoltava. Tutto controllato dai poliziotti, un bicchierino in un bar, un'occhiata, una puntata nel quartiere di Quarto Giaro, cenni, sorrisi, strette di mano. Alla fine i poliziotti si hanno fatto tutto un rapporto e, visto che vedeva chi non doveva vedere, forse qualcuno del vecchio giro, alla fine è stata tolta la semilibertà a Vallanzasca. L'amore per una PR, Vallanzasca torna in carcere, ora racconta il Corriere. Passeranno diverso tempo, diversi mesi, prima che il pluriergastolano possa avere un altro permesso premio. Vabbè, ci fermiamo per la pubblicità e il meteo e poi ripartiamo dalle altre notizie con la politica, anche se, ripeto, in tempi di silenzio, di campagna elettorale, con i ballottaggi, le urne aperte, di politica c'è un po' poco. In primo piano. Allora, come detto, la politica oggi è tutta concentrata su cosa? Sui ballottaggi, però è chiaro, le urne sono aperte, dunque i giornali forniscono un po' delle notizie nelle quali non è che ci si può addentrare più di tanto con interviste, eccetera. Beh, intanto il voto, l'affluenza è calata di oltre il 6%. Oggi, ricordiamo, si vota 88 comuni e 6 province al ballottaggio. In particolare i riflettori sono sulle sfide di Milano e Napoli per quel che riguarda i comuni. Il calo delle percentuali è circa 6,16 punti in meno rispetto nelle comunali, 11,79% in meno rispetto alle provinciali. Tiene il voto di Milano rispetto a 15 giorni fa, mentre è vistoso il calo di affluenza registrato a Napoli. Questi i dati principali per quel che riguarda l'affluenza. Urne aperte fino alle 15, come detto. Il Corriere della Sera, pagina 5, cosa fa? Un focus sui 4 candidati principali delle due città, Milano e Napoli. Come hanno passato l'ultima giornata? Letizia Moratti, riposo in famiglia. A chiunque gli abbia chiesto qualcosa ha detto: so di aver fatto il mio dovere. Per Giuliano Pisapia invece una visita all'ultima tappa del Giro d'Italia e poi al seggio. Mentre a Napoli Luigi De Magistris ha votato molto presto, alle 9.30, poi pranzo di pesce e riposo in famiglia. Mentre Gianni Lettieri è quell'unico che ha dato un pochino, ha fatto mandare un pochino in subbuglio gli elettori, perché ha fatto una visita proibita nei seggi, nel senso è andato in qualche altro seggio, si è presentato a parlare. Questo è vietato perché il candidato si può presentare solo nel seggio dove può votare, ma non può visitare altri seggi, al che è stato subito allertato da alcuni attivisti vicino alla lista di De Magistris. È stata attivata la polizia e subito è arrivato Gianni Lettieri, ha detto: scusate, non lo sapevo veramente, è finita lì questa vicenda. Tanto che Repubblica ci fa una pagina: Lettieri va ai seggi allontanato, così a pagina 6. Allora, come detto, però in realtà tutti i giornali sono concentrati su che cosa? Sull'analisi già del dopo voto. Comunque vada, gli occhi puntati sono soprattutto sul premier Silvio Berlusconi e sulla volontà, almeno che si evince da tutti i giornali, di cambiare, rilanciare qualcosa per quel che riguarda il partito. Basta vedere tutti i quotidiani. Berlusconi pensa al dopo elezioni, stati generali per rilanciare il PDL. Così titola pagina 6 Il Corriere con Marco Galluzzo, che scrive: lo scenario peggiore il Cavaliere l'ha già affrontato col suo partito che perde a Milano e Napoli, una doppia batosta dalle conseguenze politiche molto forti. È preoccupato? Assicurano di no, almeno non più. La mente è già domani, quando rientrerà dalla Romania per presiedere un ufficio di presidenza del partito e partecipare forse al ricevimento per il 2 giugno nei giardini del Quirinale. Questo è... Si evince anche dal giornale la mossa di Silvio, gli stati generali per rilanciare il PDL. È un'ipotesi che già per esempio è stata lanciata dal ministro Frattini in un'intervista in questo weekend, di proporre un direttorio che rappresenti le varie anime del PDL. In molti chiedono anche che la politica economica del governo sia frutto di scelte condivise, una sorta di cabina di regie. Così anche per esempio sul Corriere, in un altro articolo di Paola Di Caro, dal direttorio alle primarie, ecco tutte le ricette per cercare di cambiare il partito. Viene intervistato su questo tema dalla Stampa, pagina 3, anche Ignazio La Russa, che è uno dei coordinatori del partito. Ministro La Russa, pessimista o ottimista sul risultato elettorale? Vabbè, si parte così e dice: ero pessimista già al primo turno, rimango pessimista anche sull'esito definitivo. Pedaliamo in salita, ma è come al Giro d'Italia, la tappa di montagna può ribaltare la corsa. E per quel che riguarda poi il partito, dice: le cause di una sconfitta, una vittoria sono molteplici, ma il partito non c'entra, incide non più dell'1-2%, mancano i voti della Lega, dice La Russa, che ha perso 4-5 punti. E poi sul partito: è un momento delicato, credo sia importante dare linfa al PDL. Io 2 mesi fa ho consegnato a Berlusconi un piano dettagliato, si tratta di coinvolgere attorno ai 3 coordinatori una parte importante dell'attuale ufficio di presidenza con compiti operativi. Questo La Russa sulla Stampa, mentre in una serie di interviste che vi segnalo sia sul Corriere, sia sul Messaggero, sia su Repubblica, una delle protagoniste in questo momento è il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, che ha fatto una critica anche molto dura nei giorni scorsi allo stesso partito, ha accusato di 2 candidati che 2 giorni prima delle elezioni sono passati dalla sua lista al Popolo della Libertà. Secondo Repubblica la denuncia da parte della Polverini è questa: avevano anche esagerato, 2 giorni prima del voto 2 eletti nella mia lista civica annunciano il passaggio al PDL. Insomma, un qualcosa che è una sorta di compravendita di consiglieri regionali. E poi comunque la Polverini dice: troppi errori sui candidati, bisogna dare spazio alla base, basta decisioni dall'alto. Questo su Repubblica. Anche sul Corriere dice al PDL: devono chiedersi che partito è diventato, un partito che ha sempre funzionato grazie all'effetto trascinamento, ma oggi l'effetto trascinamento purtroppo si è esaurito. E così anche sul Messaggero: il PDL senza regole, giù le mani dalla giunta. Insomma, Renata Polverini che striglia un po' il partito, il Popolo della Libertà, dicendo si cambi. E beh, certo, questo dopo il ballottaggio sarà uno dei temi politici sul tavolo. Per Repubblica, nel retroscena di Francesco Bei a pagina 3, è una Lega invece un po' in attesa veramente di capire come andrà questo ballottaggio. Nel Carroccio, scrive Bei, già si vanno svolgendo ragionamenti che prevedono esplicitamente il dopo Berlusconi, mentre si tirano in ballo i soliti nomi, Tremonti, Formigoni. La notizia che viene data nella conclusione, proprio nelle ultime righe dell'articolo di Francesco Bei, che è anche curiosa, riguarderebbe un riassetto editoriale. L'unica novità riguarderebbe il giornale. Sentite bene, sarebbe in arrivo come direttore editoriale del giornale Sandro Bondi, cioè l'ex ministro Sandro Bondi, affiancato da un giornalista di esperienza alla macchina. Questo scrive Repubblica. Su questo tema si pronuncia anche il direttore del Foglio Giuliano Ferrara nel suo consueto editoriale del lunedì, dal titolo "O il Cavaliere cambia tutto o tutti cambiano il Cavaliere". Scrive Ferrara: la sostanza è semplice, o Berlusconi cambia tutto o tutti si metteranno a cambiare Berlusconi, non c'è alternativa. Ora, può essere che le mura della fortezza di centrodestra crollino come quelle di Gerico, un tonfo biblico, ma può anche essere che l'istinto di conservazione suggerisca ai milanesi un ripensamento nell'urna o agli sconfitti del voto, a ripensamento non avvenuto un serrato i ranghi, una ripartenza credibile. Tutto sarà misurato dalle prime parole, dal loro peso, dal loro accento di verità, dalla loro credibilità. Direi che Berlusconi e il suo governo hanno soltanto quel problema lì, la credibilità. Tutti si aspettano una specie di 25 luglio strisciante, malcondotto, politicamente inarticolato sotto la pioggia battente di una sconfitta non padroneggiata, oppure in caso di un rovesciamento del pronostico milanese si aspettano un nuovo lungo ozio di Capua, un ridanciano e liberatorio nuovo inizio nella logica dell'errore, della sciatteria. Pochi si aspettano giudizi veri e responsabili, contegno, protocollo, disciplina, robustezza di analisi, sicurezza senza strafottenza. Ma è quello che serve, solo quello. Così Giuliano Ferrara, certo, sono tutti commenti pre-voto. Poi dalle 15, quando le urne si chiuderanno, la D24 seguirà con lunghi speciali. Ovviamente questi ballottaggi, vedremo poi l'analisi politica. Io voglio andare ai temi economici, prendo in mano il Sole 24 Ore. Come detto, c'è oggi una ricerca molto interessante sull'evasione fiscale, la mappa dell'evasione. È uno studio che Gianni Trovati poi spiega dettagliatamente a pagina 3. È uno studio del Centro Studi Sintesi e Union Camere del Veneto che fotografa la situazione aggiornata al 2009. Il titolo a pagina 3 è questo: Campania al top del rischio evasione. È uno studio che mette a confronto i redditi delle varie regioni e i consumi. La geografia dell'infedeltà tributaria nel rapporto tra redditi e consumi. Che cosa si fotografa, scrive Gianni Trovati? Beh, una fotografia di un'Italia spaccata in due, non è la prima volta, tra nord e sud. I redditi più alti d'Italia si trovano a Milano e dintorni, ma la passione, per esempio, per le macchine sembra abitare altrove, visto che a Catania e Ragusa ne girano il 15-20% in più e si incontra un tasso di targhe per abitante che fa impallidire la stessa Torino, culla dell'auto. Se si parla invece di case di lusso, per esempio, l'invidia dei milanesi deve indirizzarsi a Napoli, dove ville e castelli hanno un peso quasi doppio sul totale delle case rispetto alla metropoli lombarda. E allora la domanda che ci si pone è questa: come fa un reddito beneventano o casertano a sostenere un tenore di vita da centro-nord? Ecco allora la mappa del rischio evasione. Il punteggio di media è 100, l'indicatore 100 del rapporto tra reddito che si guadagna in quella regione e consumi. Chi è in positivo? La Lombardia, il Trentino, il Veneto, 123, 137, queste le cifre, 136, vale a dire che si ha un reddito maggiore rispetto a quello che si consuma. Chi è invece in rosso, per cui difficilmente si riesce a spiegare come mai si riesca a spendere così tanto in rapporto al reddito che si ha, la Sicilia 51, la Sardegna 51, la Campania 48, la Calabria 52, la Puglia 58. Questi i dati, insomma, che fanno effettivamente capire come ci sia una spaccatura tra nord e sud. Tra l'altro, sul Sole 24 Ore oggi vi voglio segnalare una guida pratica molto importante per tutti i cittadini che si imbattono quotidianamente con le multe per le infrazioni stradali. Ebbene, c'è oggi una guida pratica all'interno di Norme e Tributi, di alcune pagine, sulle multe stradali, tutto quello che dovete sapere del verbale, il riscatto dei punti, famigerati punti che si perdono sulla patente. Tra l'altro c'è anche a corollario un interessante articolo che trovate a pagina 5 sulle quali sono le città delle multe. Allora, le volete sapere le città delle multe? Rovigo sorpassa tutti. Chi hanno combinato a Rovigo io non lo so, però nell'ultimo, rispetto al 2008, le multe a Rovigo sono aumentate del 51,4%. Cari cittadini di Rovigo, state molto all'occhio, perché pare che da quelle parti siano molto severi i vigili urbani. Gli accertamenti pro capite a Rovigo sono 138,6, nettamente in testa in Italia, davanti a Firenze, accertamenti pro capite 129,8, Brescia al terzo posto, Milano al quarto, poi Catania al quinto. quindi Roma al sesto, Salerno, Pescara, Prato e Torino. Queste le prime 10 città, che primi 10 capoluoghi per la verità, dove ci sono le multe. Gli ultimi tre posti dove ci sono le multe: a Vibo Valentia, 4,3 multe pro capite. Accidenti, 4,3 multe. A Enna, 5,2 multe pro capite. A Fermo, 5,4 multe pro capite all'anno. O sono gli automobilisti più ligi al mondo, oppure insomma si chiude un occhio e mezzo, no? Per quello che fanno gli automobilisti. Vabbè, un altro tema economico che trovate sviluppato invece su Repubblica e sul Quotidiano Nazionale, lo voglio dare prima delle informazioni sul traffico, riguarda le pensioni. C'è un'analisi dei dati dell'Istat, del rapporto 2010, pensioni, disuguaglianza record, dirigenti al top e precari in miseria, così titola Repubblica pagina 10. La distanza che separa un pilota da un co-co-co o da un co-co-pro è stimabile da così da 3.500 euro contro i 120 o poco più. I dati scritti nero su bianco dell'Istat nel 2010, chi guida le pensioni sono i dirigenti con 3.788 euro in media al mese, quasi raggiunti da piloti e assistenti di volo, 3.487 euro, ben a distanza tutti gli altri, a 2.000 euro si attestano i telefonici, in buona compagnia con chi lavora per le società elettriche, 1.879 euro, mentre gli ex impiegati dei trasporti e ferrovie sui 1.500 euro, tutti gli altri sotto gli 800 euro. Anche il Quotidiano Nazionale si concentra su questo divario delle varie pensioni italiane: dirigenti e piloti, pensioni d'oro, ai precari 100 euro al mese. Questo il rapporto dell'INPS. In primo piano. Allora, oggi ci sono diverse notizie che vengono anche dall'estero sui giornali. Ne ho scelte un paio. La prima viene dalla Francia, dove, non lo so, pare che il morbo della sessuofobia abbia colpito i politici. O comunque tali, no? Don Ministro Scan non era un politico, ma un po' sì, visto che era il possibile candidato socialista alle presidenziali, e stavolta un vice ministro. Francia, via dal governo per molestie, si dimette Georges Tron, accusato da due impiegate del suo municipio. Ora, la storia è anche un pochino singolare, perché il vice ministro della funzione pubblica, Georges Tron, si è dimesso. E sentite la difesa del suo avvocato. La difesa ha preso spunto dall'importanza della riflessologia plantare. Che c'entra la riflessologia plantare, direte voi? Beh, perché è di notorietà pubblica che il mio assistito, che è anche sindaco, incoraggia la medicina non invasiva e la riflessologia. È insolito, d'accordo, ma sareste stupefatti di conoscere il numero di hobby sorprendenti praticati nei municipi. Ma perché questo avvocato ha dovuto difendere il vice ministro parlando di riflessologia plantare? Perché è stato beccato mentre faceva dei massaggi ai piedi di due sue dipendenti, una 35enne, una 34enne, e ecco, si è difeso così, insomma, è il mio hobby fare riflessologia plantare, no? E quindi con la segretaria faceva questo tipo di pratica. La verità è che queste due donne di 34 e 36 anni, per la precisione, hanno sostenuto di aver avuto per alcuni mesi relazioni con lui, poi sono state licenziate in tronco. Insomma, mi sa che la riflessologia plantare c'entra ben poco. Cade il vice ministro in Francia, titola anche così La Stampa, il vice ministro che adorava i piedi femminili. Questo l'hanno messo anche nel titolo. Un altro politico rovinato da uno scandalo sessuale. Scusate se sorrido, ma insomma la vicenda in realtà è drammatica e seria. La seconda notizia proviene dall'Afghanistan. Siamo poco abituati ormai a queste notizie, ma oggi il Corriere e Repubblica ci dedicano due pagine, perché se confermata, come pare, è un altro errore clamoroso che ha portato alla morte di diversi bambini. Afghanistan, un raid della NATO fa strage di bambini, uccisi dalle bombe 12 piccoli e due donne, così titola il Corriere, l'articolo di Guido Limpio. c'è stato un attacco nella regione di Helmand, partito poi il raid da parte della NATO, sono state colpite alcune case che probabilmente erano state utilizzate dai talebani, che nel frattempo però si erano dileguati. Il risultato: sono state bombardate quelle case, sono stati uccisi 12 bambini e 2 donne. E così anche per Repubblica, strage di bambini e l'ira del presidente afghano Karzai, basta raid della NATO. A proposito di sicurezza internazionale, oggi voglio fare un salto sul giornale, dove c'è un articolo tutt'altro che rassicurante, per la verità, però viene messo anche in prima pagina con ampio risalto. Il titolo è questo: paura attentati per il 2 giugno, a Milano è allarme terrorismo, il 2 giugno a rischio attentati, per Milano massima allerta. A pagina 14 del giornale Paola Fucilieri racconta dei servizi segreti che parlano chiaro, ma anche se ovviamente non in maniera esplicita: se ci dovesse essere un attentato terroristico per rivendicare la morte di Osama Bin Laden, questo avverrà a Milano. Potrebbe accadere in luoghi di aggregazione o di culto, ma il timore che possa essere organizzato in metropolitana o in stazione centrale. Vabbè, insomma, io sono convinto che ci sarà la smentita presto in giornata, però certo non un articolo molto rassicurante. Per chi vuole anche essere informato sempre su questa vicenda televisiva, perché la settimana scorsa avevamo parlato di Michele Santoro, allora pare che anche Fabio Fazio, ieri, salutando l'ultima puntata di Che tempo che fa, ha lanciato un po' di, come dire, ha lasciato un po' di giallo. Tecnicamente ha detto arrivederci l'anno prossimo, ma non so se sulla Rai. Ecco, più chiaro di così. Si parla di un passaggio alla 7 anche per Fabio Fazio. E allora ieri ha detto: 6 mesi fa la direzione di Rai 3 ci ha chiesto di restare per altri 3 anni, sono passati 6 mesi, non ho ancora capito le intenzioni della Rai, comunque ho capito che l'anno prossimo questo programma ci sarà, ci ritroveremo l'anno prossimo, ma dove? In fondo non è importante. E quindi questo Fabio Fazio oggi sul Corriere viene rilanciato. Per le altre notizie di cronaca, io mi voglio soffermare su quella che è una storia che ha dell'incredibile, racconta Laura Anello oggi sulla Stampa. Il titolo è questo: la mafia le uccise il padre, lo Stato le toglie pensione e lavoro. È una storia incredibile, la storia di Milly Giaccone, che è figlia di un medico, anche un medico molto famoso a Palermo, il professor Paolo Giaccone, che fu ucciso nel 1982 perché si era rifiutato di falsificare una perizia che favoriva un boss. Perché è stata tolta la pensione? Ha dell'incredibile la motivazione per cui è stata tolta la pensione alla figlia di Giaccone, vittima di mafia. Perché? Perché le pensioni, i benefici di legge, vengono riservati ai familiari superstiti di vittime di atti di terrorismo e di stragi di matrice terroristica. Stragi. Mentre questo era un omicidio singolo. Cioè è stata uccisa una singola persona. Tra l'altro, la figlia era presente al momento dell'uccisione del padre, o meglio, lo aveva salutato pochi secondi prima, e ora dice: se fossi stata con lui, e quindi ne avessero uccisi 2, avessero ucciso anche me, ora i miei fratelli non avrebbero problemi ad avere la pensione, perché era una strage di mafia, ma siccome è stata uccisa una singola persona, cioè mio padre, allora mi hanno tolto la pensione, e così il mio senso di colpa per averlo lasciato solo quel giorno ha il timbro e il bollo dello Stato. Davvero una vicenda incredibile che la Stampa oggi racconta: la mafia le uccise il padre e lo Stato le toglie pensione e lavoro, esclusa dai benefici per i parenti delle vittime, perché non fu strage ma un singolo omicidio. Vabbè, ci dobbiamo fermare qua. Ah no, devo leggere il titolo della Gazzetta dello Sport, sennò tutti gli interisti mi dicono che poi dopo non leggo la Gazzetta dello Sport, perché l'Inter ha vinto la Coppa Italia, è tutta Coppa di Eto'o. Questo è il titolo, con Eto'o che esulta, la Coppa Italia vinta dall'Inter, Eto'o re d'Italia, a pagina 2-3, così ho letto anche all'interno della Gazzetta dello Sport. Bene, bene, l'Inter ha vinto la Coppa Italia quest'anno. 24 mattino, l'intervista. Eccoci qui, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:21 minuti, voglio salutare il sindaco di Avetrana, Mario De Marco. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovato, non è la prima volta che è stato con noi. Avetrana che è tornata sotto i riflettori, sotto la luce potente dei riflettori ancora, sindaco, perché Insomma, questo arresto che ha fatto discutere, oggi i giornali sono pieni di anche accuse alle persone che sono andate in piazza a festeggiare come se fosse l'arresto di un mafioso. L'arresto era di Cosima Serrano, stiamo parlando dell'omicidio Saraschazzi, sindaco. Sì, diciamo l'ennesima puntata di una telenovela ormai si sta svolgendo da vent'anni. In realtà quella della festa di Cosima è forse di qui, diciamo, la spontanea reazione di una modestissima parte dei cittadini, sono state una ventina, non di più. Perché dice sono, spontanea? Ma perché sicuramente sono stati un gruppo di persone attratti dai riflettori e soprattutto dalle camere, perché c'era un assembramento di giornalisti vicino alla caserma dei carabinieri e quindi molti curiosi sono avvicinati. C'è stato qualche grida in più, ma probabilmente più spinti dalla presenza dei giornalisti che da una, anche se in realtà c'era un po' di tensione, in realtà un po' di il sentimento più diffuso era ora, dicevano tutti, cioè questo è il concetto più diffuso. Sai che però oggi il Corriere della Sera, per esempio, in un reportage di Goffredo Buccini parla di, insomma, l'esultanza di Avetrana come ai tempi delle streghe, no? Ad applaudire, Sicuramente il sentimento di quanti stavano vicino alla caserma dei carabinieri era questo. Probabilmente Cosima veniva visto un po' da tutti come colei che cospirava in silenzio e che gestiva un po' le file di tutta questa vicenda, e colei che soprattutto conosce tutti i fatti della vicenda e può dare una risposta certa. La Vetrana a Cosima gli ha sempre rimproverato questo, cioè vi era la consapevolezza da parte di tutti i cittadini, si sentiva proprio quando si tastava parlando un po' con tutti, che l'unica che voleva dirimere un po' o comunque svelare tutti i misteri di questa vicenda era Cosima. Forse lei, certo. Perché sicuramente Cosima era quella che dal primo giorno ha gestito le file, ha gestito tutte le mosse e ha depistato un po' tutto. Però, sindaco, mi scusi, lei che è anche avvocato, l'altra figlia, Valentina, ha detto neanche per i mafiosi si fanno. Cioè questi arresti ricordano proprio gli arresti dei mafiosi, no? Quando la gente va in piazza, esulta per l'arrivo, è stata accolta a sputi, a insulti, da qualcuno, per carità, però... Ma si conteranno sulla punta delle dita forse quelli che hanno fatto questa cosa, perché io ho sentito da chi era presente, sono state non più di 15-20 persone, non credo, cioè, e poi ripeto, non si è andato in piazza, ma tutto si è svolto vicino alla caserma dei carabinieri. Sì. Cioè dobbiamo un po' riportare i fatti al loro reale accadimento, non a ciò che poi viene un po' dipinto giornalisticamente o mediaticamente, si tende un po' sempre ad allargare. La vicenda è quella, sicuramente c'era qualcuno che avrà sentito un po' la necessità di sfogarsi, di dire qualcosa di troppo, ma sicuramente il sentimento che provava era quello, cioè ha espresso un po' il sentimento comune di cittadinanza che sperava in una evoluzione di questo tipo. Cioè nessuno crede o nessuno ritiene che Cosima sia, c'è sempre la presunzione di innocenza, però diciamo nessuno crede che Cosima sia colpevole, ma sicuramente tutti sempre hanno pensato che Cosima sappia tutto qualcosa, non soltanto sappia tutto ma anche abbia gestito tutti, cioè, e questa è la particolarità di Cosima, cioè come se Cosima fosse veramente una strega che abbia voluto gestire tutte le fila. Questo è un concetto generale che nessuno vuole togliere la mente. Senta, sindaco, lei è anche o non è preoccupato, dice sono pochi casi singoli, anche quello che denuncia i giornali, cioè del fatto che sembra stia rispuntando una sorta di questo turismo macabro, cioè qualcuno che viene ad Avetrana a chiedere dov'è la villetta, voglio fare una foto ricordo. Guardi, questo tipo di turismo macabro non è mai cessato, c'è stato sempre in tutto questo periodo, in questi 9 mesi. Però diciamo sempre solo concetto, sono 10, 20 in tutto, sono cinquantina di persone, c'è sempre questa curiosità, non è il turismo macabro, c'è molta curiosità, perché poi con tutti questi colpi di teatro che si susseguono sicuramente creano un'attenzione più alta. Ma lei non ha mai pensato, da sindaco, visto che vanno tanto di moda le ordinanze, no? Si fanno ordinanze un po' su tutto, faccia una bella ordinanza e vieti qualcosa, cioè vieti... Non so, faccia un'ordinanza, vieti un assembramento vicino alla villa dello zio. No, ma assembramenti non ce ne sono, diciamo, c'è sempre qualche ragazzo curioso, qualche famiglia. Le telecamere, vieti le telecamere. E poi il problema di queste ordinanze è che poi ci si crea una notizia sulla notizia. Allora io la prima volta che ho fatto l'ordinanza sono stato intervistato da 200 emittenti, quindi a un certo punto si crea un effetto poi per cui si crea un'altra notizia. Ho capito, Pestinder, ma lei non ha nulla da rimproverare, voglio dire, a qualcuno della sua comunità. Tutti hanno paragonato, anche nella drammaticità degli eventi, no, il caso di Yara Gambirasi avvenuto in provincia di Bergamo, no? Lì tutto si è svolto lontano dai riflettori, mentre ad Avetrana è stato tutto svolto con televisioni in diretta, arresti in diretta. Io probabilmente questa è una differenza che salta agli occhi. Non lo so, io credo poi la vicenda o l'epilogo finale forse abbia aiutato anche in questo senso. L'attenzione mediatica io credo che abbia portato anche a una... cioè, probabilmente se Michele a un certo punto risolve il telefonino perché si sente quasi assediato, probabilmente anche i media, senza volerlo probabilmente, hanno determinato una tensione più alta che ha portato anche l'omicida o comunque l'autore del reato eventualmente a sentirsi un po' scopribili, non scoperti, e quindi a fare una mossa falsa. Quindi dice addirittura la pressione dei media ha aiutato forse a... Io credo di sì, perché sentivo nell'aria una continua pressione, perché i media qua alla Vetrana indagavano su tutto e su tutti, e quindi c'era questa tensione che si alimentava e probabilmente ha spinto a quella mossa falsa senza la quale probabilmente non avremmo risolto il caso. Io intanto Yara invece credo che questo silenzio forse abbia portato anche a un eccesso in senso opposto e quindi a una difficoltà a trovare anche la linea traccia del reato. Ah vabbè, insomma, lei dice che addirittura la pressione dei media può essere servita, insomma, per far fare una mossa falsa a chi la poteva sicuramente fare. Sicuramente comunque Ben Bate dopo il caso di Rana è più preparato A gestire questa cosa. Quanto poi alla fine nell'equilibrio generale sia servito o non sia servito un eccesso di esposizione mediatica o altrimenti un silenzio assoluto. Io su questo, visto le vicende di Vetrana, sarei molto cauto. Io credo che i media in questo discorso, senza dare troppa importanza, diciamo, comunque la pressione dei media abbia aiutato alla soluzione del caso. A risolvere anche il caso. La ringrazio intanto, sindaco, per essere stato con noi, il sindaco Mario De Marco, il sindaco di Avetrana, è anche avvocato, e grazie. E noi ci fermiamo per la pubblicità del meteo. Poi nel nostro sondaggio vogliamo parlare di un test scientifico che entro fine anno dovrebbe entrare anche in commercio alla modica cifra di 500 euro. Tramite un esame del sangue si potrebbe scoprire quanta è la nostra aspettativa di vita, più o meno, cioè non con la data certificata, ma quanto vivremo. E allora noi vi vogliamo chiedere, ma voi lo fareste questo test che può misurare la nostra aspettativa di vita? Che ne pensate? Allora avanti, ditecelo, lo farete, lo fareste oppure no? 24 mattino. E allora pare che possa arrivare questo test che tramite un esame del sangue banale ci potrà dire quanta è la nostra aspettativa di vita, quanto siamo longevi. Certo non c'è una data, voglio dire, certificata, no, eccetera, però insomma già la notizia ha posto un po' di inquietudine, ci ha posto anche un tema per il nostro sondaggio. Quello che vi chiediamo oggi è: voi fareste questo test che ci dice più o meno quanto potremo vivere? Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Allora, c'è da dire che su radio24.it votate il nostro sondaggio e, come era presumibile, anch'io mi ci metto tra i no. Il 70%, la prevalenza per il momento dei nostri ascoltatori, dice no, io non lo farei questo test, neanch'io lo farei per carità questo test, ma vogliamo capirne qualcosa di più di tutte le implicazioni scientifiche, etiche. Con due ospiti, il professore Edoardo Boncinelli, che saluto, professore, buongiorno. Buongiorno. E voglio salutare la professoressa Claudia Mancina, buongiorno professoressa. Buongiorno. Insegna etica all'Università della Sapienza di Roma. Il professor Boncinelli invece è un genetista, ne ha scritto anche sul Corriere della Sera quando è uscita la notizia. Professore, intanto con la sintesi e con la chiarezza che le propria, ci spieghi intanto questo test su cosa lavorerebbe, su questi telomeri, che cosa sono? I telomeri sono gli estremi dei nostri cromosomi, perché il DNA non si spezzi, arrivato in fondo c'è bisogno di una specie di cappuccetti che sono appunto i telomeri, i quali però col passare degli anni si accorciano, per cui telomero corto vuol dire poca vita, telomero lungo vuol dire ancora tanta vita. Questo esame del sangue andrebbe a misurare la lunghezza dei nostri telomeri. Io quando uscì la notizia, professore, ho detto: a me i telomeri già un po' mi stanno sulle scatole, no, voglio dire. Però insomma, questo non vuol dire che se uno ha il telomero corto sicuramente, però non ha una lunga aspettativa di vita, questo mi sembra di aver capito. Beh, se ce l'ha corto c'è qualcosa che non va, può essere anche una patologia. Mentre se ce l'ha lungo, francamente, non significa molto. Ora, questo, diciamo, in maniera molto sintetica è la questione scientifica. Ora, c'è questo test che pare arriverà, che con 500 euro promette di far sapere la lunghezza del telomero, e quindi uno potrebbe scoprire quale tipo di aspettativa di vita ha. Dal punto di vista scientifico, che senso ha, professore? Ma c'è un piccolo problema, che tutte queste indicazioni sono statistiche, per cui non parla di me, non parla di lei, non parla di mio fratello, parla di un uomo medio il quale vede i suoi telomeri accorciarsi anno per anno. Quindi non è una cosa fatta ad persona, ma è una cosa che dà un'indicazione. Però, voglio dire, la maggior parte dei test che facciamo normalmente sul sangue e sull'urina sono così, quindi io non ne farei una questione specifica. E la questione però è una questione anche sicuramente etica, e su questo campo mi voglio addentrare. Anche vorrei chiedere alla professoressa Claudia Mancina. Professoressa, intanto abbiamo capito, insomma, la tecnica è molto semplice, si misura la lunghezza di questo telomero, che si accorcia man mano. Se uno vuol scoprire ce l'ha molto corto, insomma, può mettersi un po' l'animo in pace, non è che vivrà tantissimo, insomma la sua vita si sta accorciando. Da un punto di vista etico, che senso ha scoprire una cosa del genere, o voler scoprire una cosa del genere? Ma senta, io credo che queste cose debbano essere un po' lasciate alle scelte personali. Nel momento in cui esiste una possibilità di questo tipo, e toccherà alle sensibilità, ai bisogni che noi possiamo a volte, che noi non possiamo sempre immaginare tutti quali possono essere, prendere una decisione relativa. Io sono abbastanza convinta che, almeno per il momento, perché poi sa, ci sono anche dei cambiamenti di mentalità in base a questi mutamenti negli strumenti, ci possono essere dei mutamenti di mentalità, però al momento, con la mentalità che abbiamo adesso, credo che difficilmente qualcuno prenderà la decisione appunto di sapere quanto gli resta da vivere. È una cosa abbastanza, sì, da un lato psicologicamente molto impegnativa, e non se ne vede l'utilità assoluta, anche perché ovviamente si tratta di previsioni, cioè si tratta di un discorso che riguarda le condizioni genetiche appunto che possono produrre questo risultato, ma non credo, adesso non sono una scienziata, dirà meglio il professor Boncinelli, ma non credo che se ne possa derivare un'assoluta certezza. Ma lei quando parla di mentalità, a che cosa si riferisce? Perché dice con la mentalità attuale è poco pensabile che le persone lo facciano? Perché la nostra mentalità appunto ci dice che è inutile sapere quando dobbiamo morire, che questo non farebbe altro che metterci in una situazione di angoscia, e che in realtà è meglio avere un certo fatalismo, no? Noi abbiamo più o meno tutti questo tipo di mentalità, tutti forse no, ma in grande maggioranza. Però penso che queste cose possono cambiare col tempo, cioè se diventa normale sapere quanto durerà la nostra vita, più o meno quanto durerà la nostra vita, e regolarsi di conseguenza, si potranno sviluppare delle reazioni diverse, io credo. Si può anche programmare delle cose, per esempio qualcuno dice che potrebbe paradossalmente stimolare degli stili di vita più ottimisti, no? Magari uno scopre, arrivato a una certa età, che in realtà ha ancora un'aspettativa di vita abbastanza, insomma, lunga, sì, e quindi naturalmente questo vale nel caso di ottimista, positiva, nel caso opposto invece non sappiamo quale potrebbe essere la nostra reazione, e credo che sia questo il motivo fondamentale per cui molti, io stessa devo dire, pensiamo che non sia il caso di fare un'analisi di questo tipo. Però ripeto, ci possono essere bisogni che noi non immaginiamo, ci possono essere, non lo so, genitori anziani con figli giovani che possono preferire sapere sapere come affrontare un'incertezza, insomma, ci possono essere tanti motivi per voler fare questo. No, ma infatti voler sondare, io anche invito gli ascoltatori all'800 24 00 24, ci fosse qualcuno, perché io sono anch'io per il no, non lo farei questo test, ma siccome appunto il 30% dei nostri ascoltatori votando sul sito dice no, io lo farei, vorrei capire insomma le, cosa spinge anche queste persone. Intanto, professor Boncinelli, come lei ha scritto nell'articolo del Corriere, come già anche i nostri ascoltatori ci scrivono via SMS, tutti subito a pensare male, sanno, italiani siamo sempre dietrologi, a dire ecco le compagnie di assicurazioni come si fionderebbero su dati del genere. Vai a scoprire se uno da questo test ha il telomero corto o lungo, le aspettative di vita. Ma insomma, c'è la privacy, c'è il rischio addirittura futuribile che le polizze che chi ha un'assicurazione possa in qualche modo mettere mano su questo tipo di risultati. Ma questo riguarda soprattutto gli Stati Uniti, dove le assicurazioni si occupano anche della salute della gente. Da noi le assicurazioni hanno un valore marginale, poi diciamo la verità, i premi assicurativi sono talmente alti che ormai non si fa più nemmeno gli esami clinici, perché comunque loro cascano sempre in piedi. Negli Stati Uniti effettivamente, in cui ti possono o non ti possono stipulare la polizza, la cosa potrebbe avere una certa importanza. Professore, ma mi dica la sua posizione. Lei è uno scienziato e ha detto, per uno scienziato in genere un elemento di conoscenza è sempre meglio rispetto a un elemento di non conoscenza, no? Questo è il principio basilare della scienza. È meglio sapere che non sapere. E poi non ci scordiamo che tutti fanno gli spiritosi quando si parla della scienza, però poi vanno dalla maga, vanno dalla stucchiera, vanno dai tarocchi. Quindi che logica c'è in questa contraddizione? La gente vuole sapere, ma vuole sapere cose ridicole mentre non vuole sapere cose serie. Ma lei quindi lo vuole sapere, lo vorrebbe sapere oppure no? Perché qui si pone un dilemma scientifico non indifferente anche. Ma guardi, io ho 70 anni, quindi l'importanza per me è molto relativa. Certo, se uno ha 50 anni e sa che deve vivere ancora molto, avere una malattia, avere un incidente è particolarmente tragico, mentre se uno sa che più o meno deve morire presto, come dire, si segna. Quindi sapere di dover vivere tanto, avere poi un incidente può essere particolarmente spiacevole. Intanto io voglio sentire, allora 800 24 00 24, sentiamo qualche ascoltatore appunto che ne pensa di questo. Marco da Pavia, buongiorno. Buongiorno signor Milan e buongiorno ai suoi ospiti. Il mio parere è per il no, perché sono d'accordo con quello che diceva poco fa anche la signora che citava la mentalità. Io credo che sia ancor più una questione di natura dell'uomo, quella di non avere una prevedibilità del termine o della probabilità. Quindi mi aspetterei, questo è il mio parere, che la conoscenza di questo dato impatterebbe notevolmente sul modo di condurre la propria vita. Beh, questo sicuramente, su questo esatto. Non c'è dubbio, voglio dire, non è un dato come sapere se uno domani deve mangiare il pollo o il pesce. No, è vero, però l'impatto è direi abbastanza dirompente, perché nel momento in cui è negativo il risultato, io non so, dicevo prima alla vostra... Ma lei lo farebbe o no? Mi dica, non lo farei e mi preoccupa anche la possibile strumentalizzazione di questo dato. Voi citavate l'assicurazione, io cito per esempio l'ente pensionistico, che poi è un po' ancora un'assicurazione, no? Sì. Quindi mi preoccuperei anche di questa notevole possibile strumentalizzazione. Ah vabbè, insomma, vede, la dietrologia c'è sempre, no? Grazie Marco. Vorrei andare a Bergamo da Rezza. Rezza, è giusto il nome? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, dica. Niente, io volevo intervenire per dire che sì, io farei più che volentieri questo esame, perché potrebbe essere una cosa per dare indicazioni. Adesso io ho 35 anni, faccio questo esame e mi dicono guarda che tu così più o meno sarei ancora vivo per 40 anni. Ok, io lo prendo, cambio, non so, dieta che sto facendo, modo di mangiare, e lo rifaccio tra 3 anni, vedo se mi dicono guarda che hai 37... un conto, se mi dicono no, con questo ritmo tu avrai ancora 50 anni, ok, prendo quello. Se mi dicono che no, guarda, così hai 20 anni, dico, porco cane, questa dieta non andava bene. Ma insomma, è una vita, no, è una vita straordinariamente programmata, Rezza, ma voglio dire, l'imprevedibilità, il fascino anche del sapere. Poi lei parte da un presupposto, sicuramente sarà così. È come un esame medico, come ho capito, esame però, medico. Beh, ma non è un esame medico, voglio dire, lei parte da un presupposto che il primo esame vada bene, cioè dico, le danno 50 anni, eccetera. Ma metta che uno lo fa. Metta che uno. Ma sì, ma metta che uno lo fa e scopre, guardi, che lei è messo male, insomma, anche se ha 30 anni, vivrà forse 10 anni e non di più. E uno che fa a quel punto? Va bene, va a curarsi, vuol dire che ha qualche problema, se ha 30 anni vive ancora 10 anni. Va bene, lei dice così. Va bene, grazie Reza. Andiamo alle informazioni sul traffico e poi riprendiamo con i nostri, ospiti, gli ascoltatori. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Allora, stiamo discutendo appunto di questo test scientifico che dicono i giornali sarà presto in vendita in Gran Bretagna e col quale si potrà presumibilmente, con una certezza più o meno approssimativa, capire quanto sarà la nostra aspettativa di vita. Professoressa Mancina, prima il professor Boncinelli ha fatto ha toccato un punto interessante quando ha detto: non è proprio vero che noi non vogliamo sapere. E infatti poi cosa facciamo? Andiamo dalle fattucchiere, andiamo dai maghi, andiamo da quelli che leggiamo l'oroscopo, andiamo a quelli che ci fanno queste previsioni, insomma vogliamo sapere, ma vogliamo sapere, ha detto, come ha detto il professor Boncinelli, delle cose non vere, no? E rifiutiamo di sapere invece magari delle cose vere, quindi non è proprio vero che non voglia sapere l'italiano, no? No, però è abbastanza caratteristico, cioè si vuole sapere, ma si vuole sapere qualcosa che non è certo, quindi in realtà credo che le fattucchiere, l'oroscopo eccetera siano un modo per girare attorno, proprio per giocare, anche nel senso più serio della parola, per giocare con questo sapere e non sapere, con questa incertezza, con l'incertezza della nostra vita. E non è che si vuole sapere con certezza, perché è ovvio, nessuno pensa che quella sia una certezza, neanche chi ci va, credo, pensa che quella, che quelli possano dare una certezza, quegli strumenti lì. Quindi la differenza qui è proprio che, trattandosi di una cosa scientifica, darebbe una quasi certezza, o perlomeno così viene venduta. Io poi non credo che si tratti di una certezza, perché come appunto si diceva, si possono avere incidenti e malattie, e quindi quindi non si tratta di certezze. Però si tratta di giocare con le previsioni. Ma io le chiedo, dica. No, volevo dire una cosa a proposito della questione delle assicurazioni, eccetera. Sì. Perché questo effettivamente è un problema, anche se si può porre in modo diverso in Italia che in altri paesi, comunque è un problema che non è nuovo, peraltro, il problema di tutta la medicina predittiva, cioè la previsione delle malattie che è effettivamente possibile, eccetera. Ora, a me sembra che questo sia il vero problema etico di tutta la questione, e che noi dobbiamo assolutamente muoverci nella direzione di una garanzia dell'assoluta riservatezza di queste informazioni, cioè queste informazioni, ove ci siano, devono essere appartenere al soggetto e non devono essere comunicate a nessun altro. Questo è un punto sul quale devono essere prese delle decisioni molto, molto chiare, assolutamente, molto precise, anche dai governi. Altrimenti sì, non solo come dice assicurazioni, appunto i sistemi pensionistici, le banche, qualcuno ci mette dentro, insomma, chiunque certo, possa entrare in possesso di questi dati, certo li può utilizzare in malo modo. Voglio sentire Marco da Padova, che ne pensa? Buongiorno. Sì, buongiorno dottor Milanente. Io volevo intervenire perché, essendo un biotecnologo, lavorando per un'azienda, uno spin-off dell'Università di Padova che si occupa appunto di sequenziamento di DNA, insomma riesco a capire benissimo di quello di cui state parlando, e volevo appunto intervenire su due punti. Il primo punto è quello, diciamo, un po' la preoccupazione che sentivo sia da vari ascoltatori, sia della sua ospite, riguardo alle assicurazioni. Sì, all'utilizzo dei dati, ecco, poi le assicurazioni. In America il tema della genomica personalizzata e quindi le informazioni riguardo ai geni è un tema che è nato negli ultimi 2-3 anni, perché ci sono aziende che fanno appunto questi test genetici. Quello di cui parlate voi è quello sulla lunghezza dei telomeri, che è uno di diversi fattori che appunto sono legati alla lunghezza della vita, ma non è il solo, appunto, certo, anche voi. però questo tema diciamo è già stato portato avanti anche dal punto di vista legislativo. È già stata appunto una legge che penso sia uscita un paio di anni fa, che appunto legifera sul trattamento dei dati genetici e sull'impossibilità da parte delle assicurazioni di utilizzare tali dati genetici per qualsiasi scopo. Quindi diciamo sono blindati, sono questi dati. Io uno di questi test, diciamo, dell'azienda, quella più famosa americana che attualmente fa questi test, l'ho fatto personalmente su di me. E appunto diciamo una delle informazioni che vengono date è appunto quella di a quali malattie una persona può essere predisposta. Sì, la farmacia predittiva. Certo, senta, ma questo sui telomeri invece lei lo farebbe? Per avere un'informazione diciamo in più? Sì, io lo farei, però diciamo che la predittività di questo tipo di test attualmente è ancora, diciamo, è parziale, perché è uno dei mille fattori che inducono appunto che poi permettono di dare una predizione di quella che è la lunghezza della vita. Ma no, ma certo, intanto la ringrazio Marco da Padova. Senta, professor Boncinelli, questo test, come altre notizie, rientra secondo lei nella tendenza, magari una domanda sbagliata, invece nella tendenza che c'è sempre più negli ultimi anni di volere, uso questo verbo, manipolare o comunque controllare la vita e la morte come parte della vita, come una delle fasi della vita? Ma guardi, sapere è sempre utile, poi uno deve in qualche modo impostare la sua vita, però mi chiedo come mai tutta questa gente che si preoccupa tanto, poi per esempio fuma. Fumare è certamente un fattore che accorcia di molto la vita, quindi bisognerebbe essere razionali, sapere bene ma anche tirare le conseguenze. Io posso sapere i telomeri di media lunghezza, come ce l'avranno tutti, però poi devo condurre una vita un po' per bene, se no mi rovino con le mie mani. Ma perché, professore, forse uno dice fumare, lo so che è una cosa, io non fumo, ma fumo ogni tanto una sigaretta, ma fumare, dice, è una cosa che mi dà soddisfazione, non è che posso vivere sempre con l'idea che una cosa mi faccia male, no? Uno deve subire le conseguenze. Io per esempio sono uno che non si trattiene a mangiare, lo so benissimo, però poi non me la posso pigliare con chi mi fa le previsioni che essere abbondanti di taglia mi accorcia la vita. Vorrei fare la stessa domanda alla professoressa Mancina, visto che siamo in conclusione. Secondo lei, anche dal punto etico, dal punto di vista bioetico, c'è questa tendenza negli ultimi anni a volere sempre più controllare tutte le fasi della vita? Ricordiamo che la morte poi è una fase inevitabile di approdo, insomma, della vita, e questo testo lo si può leggere anche così, in questo modo? Oppure no, è solo la scienza che avanza e quindi anche questo tassello mettiamo all'interno della scienza? Ma senta, io sarò per scientista, ma io sì, penso che sia la scienza che avanza e che questo l'avanzamento della scienza possa portare soltanto benessere e opportunità. Naturalmente, come tutte le opportunità, ci possono essere dei lati negativi e soprattutto ci sono degli usi, e soprattutto ci possono essere degli usi negativi, però questo tocca alla società controllare i possibili usi negativi, ma conoscenza in più è sempre un fatto positivo. Sentiamo, no, ce la facciamo allora, anche l'ultimo ascoltatore, Giuseppe da Avellino, buongiorno. Buongiorno Alessandro. Dica. Io volevo sottolineare un aspetto, uno di tipo scientifico, uno di tipo più psicorelazionale. Quello di tipo scientifico ovviamente è che tale test è l'espressione di una ricerca del nostro tempo di superare quelli che sono i confini e d'essere fortemente attratti da ciò che sono le incognite della vita. Beh. E questo però lascia comunque... Non è un approccio molto scientifico questo, Giuseppe, forse... Assolutamente, difatti... No, nel senso, la sua spiegazione non è scientifica, cioè... Sì, no, volevo dire che il test in effetti lascia il tempo che trova, perché ovviamente ci sono una miriade di variabili tali che possono intervenire. E questo l'abbiamo detto. L'altra considerazione, perché siamo in chiusura, L'altra considerazione è questo, che ci porterebbe e ci paragonerebbe un esame di questo genere con un risultato quasi ha praticamente dei condannati a morte che aspettano esclusivamente il condanno. Beh, ma no, dai, non è proprio così. Non è che c'è la data, voglio dire, come i condannati a morte. Sì, assolutamente. Cioè, l'approdo per tutti è quello, non le do una notizia, questo Giuseppe lo sa anche lei, però non è che proprio c'è la data. In ogni caso, questa secondo è la sua visione, la ringrazio Giuseppe per essere stato con noi, così come saluto il professor Edoardo Boncinelli, genetista San Raffaele di Milano, la professoressa Claudia Mancina, che insegna etica all'Università La Sapienza di Roma. Continuate su Facebook nella nostra pagina 24 Mattino la discussione. Domani i urne chiuse alle 15, ballottaggi speciale con Oscar Giannino qui dalle 8:20 alle 10 per parlare di tutto. Domani ci vediamo alle 7:20. Saluto Luca Rinaldi in redazione con Elisabetta Fusconi, Paolo Corleone in regia, e che dire, a domani.